Il futuro fa paura, tutti credimi. Ascolta il silenzio della notte, ti può far riflettere, ti può far decidere. Come vedi, tutto è possibile. Sogni, immagini confuse, spesso dimenticate. Al risveglio tutto cambia, il ritorno alla realtà spesso è traumatico, non sempre è logico. Troppi pericoli invadono la mia corsia, le tentazioni sono dure da sconfiggere. Cresce la paura di fallire nella vita, di non riuscire a saltare gli ostacoli. Vorrei poterti guardare negli occhi, dirti cosa provo, dirti cosa sento, dirti cosa vedo quando sei con me. Ma non è così facile, c'è qualcosa tra di noi che mi blocca, che mi ostacola nel parlarti, nel guardarti. Il terzo incomodo è l'inagguato. Madonne fatte di mattonelle, fanno contorno a braccia riaccese a scaldarle. Notti d'estate in tempi di febbraio, di sera sveglio, di giorno veglio. Statue di legno pronte a rappresentare Dio di fronte io. Caravelletti termale ci si scivola, acchiappa la catena e getta l'ancora. Rosari verdi stretti per le adoratrici, fermaci con griglie gialle di giustizia che mozzano racconti in tranci di vite che chiudono l'isola. Serramanico, Don Marco, un bar in pozze d'acqua confinate. Ma non si può bere il gusto e acrilico. Accecato dalla luce dei tuoi occhi blu, fumo scenico, inchiostro lucido, macchio fogli, vergini mani nere che non si lavano più, registrando immagini. Mi guardi fisso, di fronte di profilo, tracciando linee rette su di me. Non ti conosco, non so chi sei, un incontro casuale segnato dal destino. A mai più rivederci mio bel bambino. Ore perse ad aspettare, il mio turno e il mio giorno non è ancora arrivato. Lo aspetto da tempo, arriva lo sento, il momento della riscossa, della ripresa del mio impero. Almeno lo spero di riuscire a tirar su ciò di cui ho bisogno, non è un sogno ma reality. Fumo bianco che mi avvolge, che mi rende inattaccabile, impenetrabile. La fortezza della critica, bette beat is the real. Segui il mio tragitto sino al paradiso. Quadri di mais dai gialli fluorescenti, bevande calde salate per i miei sensi. Accanto a birre analcoliche sbagliate, monete ne avete almeno una di quelle bucate. Arance spogliandosi si scopre un mandarino dal capotto nero e dai semi vivi, riconosciuti a vista per cucine stili, fra due cuscini, conchiglie che fanno bambini mini, piccoli pesci, bianchi, lisci, uomini, donne, facce, tatuaggi, tenta a guardarsi, coste dorate, lanciarsi al volo con un gesto provato, ma con il mandolino non ci riesco.